230. Gnocchi di semolino. Latte decilitri 4, semolino grammi 120, burro grammi 50, parmigiano grattato grammi 40, uova numero 2, sale quanto basta. Cuocete il semolino nel latte e quando siete per ritirarlo dal fuoco, salatelo e versatevi metà del burro e metà del parmigiano. Poi, quando è ancora ben caldo, aggiungete le uova e mescolate, indi versatelo sulla spianatoia o sopra un vassoio, distendetelo alla grossezza di un dito e mezzo e lasciate che ghiacci per tagliarlo a mandorle. Eccovi gli gnocchi che collocherete uno sopra l'altro in bella mostra, entro un vassoio proporzionato, intramezzandoli col resto del burro a pezzetti e spolverizzandoli suolo per suolo, ma non alla superficie, col resto del parmigiano. Per ultimo, rosolateli al forno da campagna e serviteli caldi o soli per contorno ad un piatto di carne stracotta o fatta in altra maniera.